quando i gentili all'intorno udirono che l'altare era stato ricostruito e il tempio rinnovato come prima, ne restarono fortemente irritati. Decisero perciò di sterminare quelli della stirpe di Giacobbe che si trovavano in mezzo a loro e cominciarono così a uccidere e a far strage tra il popolo. Allora Giuda iniziò a combattere contro i figli di Esaù nell'Idumea e nella regione di Acrabattene, perché essi tenevano gli israeliti in stato d'assedio. Infisse loro una grave sconfitta, li umiliò e prese le loro spoglie. Poi si ricordò della malizia dei figli di Bean, i quali erano per il popolo un laccio e un inciampo, perché tendevano ad esso insidie sulle vie. Li costrinse a rifugiarsi nelle torri, li assediò e li votò allo sterminio, appiccando il fuoco alle torri con tutti quelli che vi erano dentro. Passò poi ai figli di Ammon, dove trovò un forte esercito e un popolo numeroso, il cui capo era Timoteo. Fece contro di loro numerose battaglie, li mise in rotta davanti a sé e riuscì a batterli. Infine, impadronitosi di Jazer e delle sue dipendenze, fece ritorno in Giudea. Anche i gentili del Galaad si erano coalizzati contro gli israeliti che erano entro i loro confini per sterminarli. Questi allora, rifugiatisi nella fortezza di Datem, mandarono lettere a Giuda e ai fratelli, nelle quali si diceva: «I gentili attorno a noi si sono coalizzati contro di noi per sterminarci e si apprestano a venire ad occupare la fortezza nella quale ci siamo rifugiati. Timoteo è a capo del loro esercito. Ora vieni e liberaci dalle loro mani. Molti di noi, infatti, sono caduti e tutti i nostri fratelli che erano nella regione di Tobia sono stati messi a morte, mentre le loro donne, i loro figli e i loro averi se li sono portati via. Sono periti là circa un migliaio di uomini». Si stavano ancora leggendo queste lettere quando ecco altri messaggeri giunsero dalla Galilea, le vesti stracciate, annunziando le medesime cose e riferendo come contro di essi si erano coalizzati quelli di Tolemaide, di Tiro e di Sidone e tutta la Galilea degli stranieri per sterminarci. Quando Giuda e il popolo ebbero udito questi discorsi, si radunò una grande assemblea per decidere cosa dovessero fare per i loro fratelli che erano nella tribolazione, combattuti dai gentili. Disse Giuda a Simone, suo fratello: «Scegliti degli uomini e va a liberare i tuoi fratelli che sono in Galilea, mentre io e Jonathan, mio fratello, andremo nel Galaad». Lasciò Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azzaria, capo del popolo, con il resto dell'esercito, a guardia della Giudea. E diede loro quest'ordine: «Presiedete a questo popolo e non attaccate guerra contro i gentili fino al nostro ritorno». A Simone furono assegnati 3.000 uomini per andare in Galilea, a Giuda 8.000 per il Galaad. Simone partì per la Galilea e ingaggiò molte battaglie contro i gentili, mise in rotta i gentili davanti a sé e li inseguì fino alle porte di Tolemaide. Dei gentili caddero circa 3.000 uomini e Simone prese le loro spoglie. Raccolti poi gli israeliti della Galilea e dell'Arbatta, con le mogli, i figli e quanto avevano, li condusse in Giudea con grande allegrezza. Frattanto, Giuda il Maccabeo e Jonata, suo fratello, passarono il Giordano e camminarono per 3 giorni nel deserto, finché si imbatterono nei Nabatei, i quali li accolsero pacificamente e riferirono loro tutte le cose che erano accadute ai loro fratelli nel Galaad. Molti di essi si trovano rinchiusi a Bozra, Bozor, Alema, Casfin, Maked e Carnain, tutte città fortificate e grandi. Anche nelle altre città del Galaad sono rinchiusi. Si è fissato per domani di attaccare le fortezze, di conquistarle e di sterminare in un solo giorno tutti quelli che vi si trovano. Allora Giuda col suo esercito cambiò subito cammino per il deserto alla volta di Bozra e, occupata la città, ne uccise tutti i maschi a fil di spada, prese tutte le loro spoglie e la incendiò. Di notte ripartì di lì e si portarono fino ai pressi della fortezza. Come si fece giorno, alzarono gli occhi, ed ecco una folla innumerevole che rizzava scale e macchine per espugnare la fortezza, e già combattevano contro quelli che vi erano. Giuda allora vedendo che la battaglia era cominciata, mentre le grida della città salivano fino al cielo tra un fragore di trombe e un clamore assordante, disse agli uomini del suo esercito: «Combattete oggi per i vostri fratelli». Li lanciò in tre schiere alle loro spalle, suonando le trombe e alzando grida di invocazione. Le truppe di Timoteo, accortesi che c'era il Maccabeo, fuggirono davanti a lui. Egli inflisse loro una grande sconfitta. In quel giorno caddero di loro circa 8.000 uomini. Egli allora piegò su Alema, l'attaccò e la conquistò, uccise tutti i suoi maschi, prese le sue spoglie e la incendiò. Poi, partito di lì, conquistò Caspin, Maked e Bozor e tutte le altre città del Galaad. Dopo questi fatti, Timoteo radunò un altro esercito e venne ad accamparsi di fronte a Rafon, al di là del torrente. Giuda allora mandò ad esplorare l'accampamento e gli riferirono: «Presso di lui stanno radunati tutti i gentili che ci circondano e l'esercito è molto grande. Hanno assoldato gli arabi come ausiliari e stanno accampati al di là del torrente, pronti ad attaccare battaglia con te». Giuda mosse loro contro, ma Timoteo disse ai generali del suo esercito, mentre Giuda e il suo esercito si avvicinavano al torrente: «Se passa verso di noi per primo non possiamo resistergli, perché sicuramente ci vincerà. Se invece ha paura e si accampa al di là del fiume, passeremo noi da lui e lo vinceremo». Giuda, come si fu avvicinato al torrente d'acqua, pose gli scribi del popolo lungo il torrente e diede loro quest'ordine: «Non permettete che nessuno si fermi, ma tutti vadano in battaglia». Poi passò egli stesso per primo verso i nemici e tutto il popolo dietro di lui. Restarono battuti tutti i gentili davanti a loro, abbandonarono le armi e si rifugiarono nel tempio di Carnaim. Allora essi occuparono la città, incendiarono il tempio con tutti quelli che vi erano dentro, e così Carnaim fu espugnata e non poterono più resistere davanti a Giuda. Giuda radunò tutti gli israeliti che erano nel Galaad, dal più piccolo al più grande, le loro donne, i loro figli e il loro bagaglio, una folla stragrande, muovendo alla volta della terra di Giuda. Giunsero a Efron, grande città, ben fortificata, che era sulla strada, e da cui non si poteva piegare né a destra né a sinistra, ma bisognava attraversarla. Quelli della città però chiusero loro il passaggio e con pietre barricarono le porte. Giuda mandò a dir loro, in termini pacifici: «Attraverseremo la tua terra per tornare alla nostra terra. Nessuno vi farà del male, vogliamo soltanto passare a piedi». Ma quelli non vollero aprirgli. Giuda perciò ordinò di proclamare nel campo che ciascuno si fermasse nel luogo dove si trovava. Gli uomini della truppa presero posizione e combatterono contro la città per tutto quel giorno e tutta la notte. La città cadde nelle sue mani. Ne passò a fil di spada tutti i maschi, la distrusse fino alle fondamenta, prese le sue spoglie e attraversò la città passando sui cadaveri. Poi attraversarono il Giordano verso la grande pianura di fronte a Beisan. Giuda andava raccogliendo i ritardatari e confortando il popolo lungo tutta la via finché giunsero nella terra di Giuda. Salirono al monte Sion con allegrezza e gioia e offrirono olocausti, giacché nessuno di loro era caduto ed erano ritornati in pace. Nei giorni in cui Giuda e Jonata erano nella terra di Galaad e Simone, suo fratello, in Galilea davanti a Tolemaide, Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azaria, capi dell'esercito, avendo avuto notizia delle gesta di valore e della guerra che quelli avevano compiuto, dissero: «Facciamoci anche noi un nome e andiamo a combattere contro i gentili che sono intorno a noi». Diedero dunque ordini agli uomini dell'esercito che era con loro e marciarono su Iannia. Gorgia con i suoi uomini uscì dalla città contro di loro per combattere e Giuseppe e Azaria furono sconfitti, inseguiti fino ai monti della Giudea, e in quel giorno caddero del popolo di Israele circa 2.000 uomini. Fu una grande sconfitta per il popolo, perché non avevano ascoltato Giuda e i suoi fratelli credendo di far prodezze. Costoro non erano della stirpe di quegli uomini per le cui mani si doveva compiere la salvezza di Israele. Il nobile Giuda e i suoi fratelli crebbero in grande onore davanti a tutto Israele e davanti a tutte le genti che udirono il loro nome, sicché si radunavano intorno a loro per congratularsi. Giuda poi uscì con i suoi fratelli per combattere contro i figli di Esaù nella terra del Mezzogiorno. Colpì Ebron e le sue dipendenze, espugnò le sue fortezze e incendiò le sue torri all'intorno. Partito di lì per recarsi nella terra dei Filistei, attraversò Maresa. In quel giorno però caddero in battaglia alcuni sacerdoti che volevano compiere imprese, portandosi sconsideratamente al combattimento. Giuda si diresse verso Asdod, terra dei Filistei. Abbatté i loro altari, gettò al fuoco le statue degli dei, prese le spoglie delle città e ritornò nella terra di Giuda.